Con la ripresa dell'anno accademico torna a pesare sul futuro dell'università italiana l'applicazione del DLL Moratti, il cui iter parlamentare è ormai in dirittura d'arrivo. Contro la blindatura di ogni discussione pubblica sul futuro della ricerca nel paese si sono mossi diversi atenei. In Basilicata, il Senato accademico dell'università ha votato all'unanimità il blocco dell'ateneo fino al ritiro del DLL. Ascoltiamo il professor Antonio Mauro Tamburro, preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Vede, noi da anni cerchiamo di convincere, in generale i politici, in particolare i ministri dell'università e in particolare il governo, su quale deve essere l'università del futuro in questo paese. Ora, la risposta che ci viene è la seguente: se noi proponiamo un modello a livello di disegni, progetti di legge, ci arriva esattamente il modello contrario. Si dirà, perché so che l'ha detto in televisione tempo fa il ministro o la ministra adesso, a me non me ne frega di molto di queste cose, che la CRUI, la conferenza dei rettori dell'università italiana, è più o meno d'accordo con lei. Non è proprio così, ma che la CRUI non ci rappresenti più noi non abbiamo dubbi da molto tempo. Poiché questo è successo e questo succede, io ritengo, e poiché alla fine ci danno un modello di università che noi non chiameremmo più università, perché a quel punto diventa una specie di azienda municipalizzata, non si capisce più che diavolo venga fuori, noi riteniamo che la cosa sia una da tale gravità, perché rinunciare al sapere universitario vero in un paese più o meno moderno come l'Italia mi pare che proprio non si possa. Ecco perché l'urgenza. Noi molleremo solo quando il ministro o la ministra accetterà innanzitutto di rinunciare alla delega. La delega, pratica inammissibile quando si discute di leggi sul sapere, sull'università. E poi avrà veramente un confronto con la comunità di base accademica. Noi non interessa molto che lei apra tavoli più o meno tecnici con qualche rettore, non ce ne frega molto. Ma la protesta del corpo docente ha coinvolto anche gli studenti ed i ricercatori. È successo a Roma, come ci racconta Andrea Capocci nella sua corrispondenza dall'Università La Sapienza. L'occasione era data da una riunione del Senato accademico che proprio oggi si riuniva, che proprio oggi ha deciso una mozione all'ordine del giorno contro l'approvazione del DLL Moratti. Il Senato accademico della Sapienza ne ha chiesto il ritiro. Ma al di là delle questioni puramente formali, quello che è stato importante è stato la manifestazione. La manifestazione è stata lanciata soprattutto dalla classe docente, hanno aderito molti studenti. Se si può fare una critica, è stata più che altro la componente precaria dell'università che non ha risposto in massa, soprattutto alla luce del fatto che il DDL Moratti, di cui si parla tanto e che tanto viene criticato, tocca soprattutto la questione della precarietà. Il DDL Moratti di cui si parla in questi mesi prevede l'abolizione del contratto a tempo indeterminato del ricercatore per sostituirlo con figure di tipo co che possono durare anche 10 anni, quindi ci si aspetta che nei prossimi giorni, almeno nei prossime settimane, venga proprio dalla componente precaria dell'università la maggior risposta. Per ora si stanno mobilitando i docenti. La parola d'ordine di oggi era la difesa della Costituzione, in quanto l'articolo 33 garantisce un'università di massa pubblica, mentre appunto il DDL Moratti mette in discussione proprio quest'idea, e quindi diciamo la proposta politica che veniva da parte dei docenti e che è stata raccolta soprattutto dagli studenti è stata proprio una mobilitazione in favore del rispetto della Costituzione in materia di formazione universitaria. E mobilitazioni e scioperi contro la riforma Moratti sono iniziate anche a Padova, dove si è tenuta un'assemblea plenaria con rappresentanti di tutte le università venete, e alla Federico II di Napoli, dove il 50% dei ricercatori ha aderito allo sciopero delle domande di supplenza. Leopoldo Calabria, amisnet.org.